Questa è la quinta puntata di un racconto al giorno. Leggerò l'incipit di una scrittura femminile azzurro pallido di Franz Werfel. Aprile in ottobre. La posta giaceva sul tavolo della prima colazione, una notevole pila di lettere perché avendo Leonida da poco festeggiato il suo 50° compleanno, arrivavano ancora ogni giorno gli auguri dei ritardatari. Leonida, si chiamava proprio Leonida, per quel nome opprimente, non meno che eroico, poteva dire grazie a suo padre, che, a parte questa eredità, da povero insegnante di ginnasio qual era, non gli aveva lasciato altro che un'intera collezione di classici greci e latini, nonché 10 annate dei Tubinger Altphilologische Studien. Per fortuna, il troppo solenne Leonida si lasciava facilmente trasformare nel più agile e semplice Leo. Così lo chiamavano i suoi amici e Amélie lo aveva sempre e soltanto chiamato Leon. Lo fece anche adesso, mentre con la sua voce scura accentuava la seconda sillaba di Leon in un acuto strascicato e melodioso. «La tua popolarità, Leon, è insopportabile», disse. «Ecco qui altri auguri, saranno a dir poco una dozzina». Leonida rispose a sua moglie con un sorriso imbarazzato. Quasi dovesse farsi perdonare di essere riuscito a raggiungere il culmine di una splendida carriera e nello stesso tempo il suo 50° anno di età. Essendo stato nominato da qualche mese capodivisione al Ministero per il Culto e l'Istruzione, era ormai diventato uno di quei 40 o 50 funzionari su cui in effetti si reggeva lo Stato. La sua mano, bianca e rilassata, giocava distrattamente con il pucchio di lettere. Amélie mangiava lentamente un pompelmo scavandolo col cucchiaio. La mattina per colazione non prendeva altro. La mantellina le era scivolata giù dalle spalle. Aveva addosso soltanto un costume da bagno di maglia nera che usava ogni giorno per la ginnastica mattutina. La porta a vetri che dava sulla terrazza era semiaperta. Considerata la stagione, faceva piuttosto caldo. Dal luogo in cui si trovava, Leonida poteva spaziare con lo sguardo molto lontano, ben oltre la verdeggiante distesa dei sobborghi occidentali di Vienna, fino alle montagne, sui cui pendii la metropoli si spegneva poco a poco. Scrutò con curiosità il cielo, poiché dal tempo che sperava di indovinare dipendeva in grande misura il suo benessere e la sua efficienza lavorativa. Il mondo si presentava oggi come una tiepida giornata di ottobre che in una sorta di estro giovanile si sforzava di assomigliare a una giornata di aprile. Sopra i vigneti che si estendevano intorno alla città si addensavano frettolose grandi nuvole bianche come la neve e dei contorni nettamente definiti. Nei punti in cui era libero il cielo esibiva un azzurro nudo, primaverile, che in quella stagione appariva quasi spodorato. Il giardino davanti alla terrazza, scoloritosi appena, aveva un aspetto tenacemente estivo. Piccoli venti indisciplinati rimbalzavano spavaldi fra il fogliame che sembrava ancora saldamente appeso ai rami degli alberi. «Niente male», pensò Leonida. «Andrò a piedi in ufficio». E sorrise di nuovo. Ma il suo era un sorriso stranamente ambiguo, entusiasta e beffardo nello stesso tempo. Sempre, quando era contento e sapeva di esserlo, mostrava un sorriso beffardo e al tempo stesso entusiasta. Come spesso accade agli uomini sani, ben fatti o belli addirittura, e a quelli che nella vita hanno raggiunto una posizione elevata, Leonida era incline, soprattutto nelle prime ore del mattino, a sentirsi straordinariamente contento e ad accettare di buon grado il corso tortuoso delle vicende di questo mondo. Uscendo dal nulla della notte, attraverso per così dire uno stupore leggero che rinasce ogni giorno come nuovo, gli uomini di questa specie entrano di primo mattino nella piena consapevolezza del proprio successo. E questo successo, nel caso di Leonida, era visibile a chiunque. Figlio di un professore di ginnasio, di un povero insegnante di quinta categoria, un nessuno insomma, un giovane senza famiglia, senza cognome e anzi, quel che è peggio, dotato di un nome ridicolmente pretenzioso. Che gelo, che tristezza, gli anni di università. Con stento e fatica riusciva a tirare avanti a forza di borse di studio e lezioni private, che era costretto a impartire a ragazzini flaccidi, stupidi e pieni di quattrini. Com'è difficile mantenere il controllo e non far trapelare la fame nel proprio sguardo voglioso ogni volta che il pigro rampollo viene chiamato a tavola. Ma nell'armadio, nel vuoto armadio, è appeso un frac. Un nuovo, impeccabile frac, che solo in un paio di punti ha bisogno di qualche piccolo ritocco. Poiché questo frac è frutto di un'eredità. Un collega di università e compagno di Baldoria lo ha lasciato in testamento a Leonida, essendosi inopinatamente piantato una pallottola in testa nella stanza accanto alla sua. La cosa evolve poi quasi come nelle favole, perché questo indumento nazionale diventa decisivo per la vita dello studente. Il proprietario del frac era un intelligente ragazzo israelita, così lo definisce cautamente, perfino in cuor suo, quell'anima bella di Leonida, che i fatti imbarazzanti non vuole mai chiamarli col loro nome e cognome. Va detto fra l'altro che a costoro, a quell'epoca, le cose andavano sorprendentemente bene, tanto che tra i motivi di suicidio si potevano permettere il lusso di scegliere come niente il cosiddetto pessimismo cosmico. Un frac. Chi possiede un frac può frequentare balli e altri trattenimenti mondani. Chi sta bene in frac e come Leonida possiede inoltre un talento particolare per la danza, suscita subito la simpatia degli altri. Fa amicizia facilmente, conosce giovani donne di radiosa bellezza, viene invitato nelle prime case della città. Così era allora, almeno in quel mondo incantato e stupefacente, dove ancora esistevano una gerarchia sociale e vette irraggiungibili che i prescelti futuri vincitori anelavano con tutta l'anima di poter raggiungere. La carriera del povero precettore incominciò con una pura e semplice coincidenza, e cioè con un biglietto di entrata che Leonida ebbe in regalo ad una delle grandi feste da ballo della stagione. Fu così che il frac del suicida si rivelò provvidenziale. Il testatore, nel cederlo insieme alla propria vita, aiutò il fortunato erede a varcare la soglia di un fulgido avvenire. E alle Termopili della sua angusta giovinezza, il Leonida di cui stiamo parlando non fu per nulla sopraffatto dallo strapotere di una società altezzosa. Non soltanto Amélie, ma anche altre signore sostengono che non si era mai visto, né si sarebbe potuto immaginare di vedere in futuro un ballerino che potesse eguagliarlo. È forse necessario sottolineare che la specialità di Leon era il valzer che si ballava a sinistra, ben inteso, fluttuante, delicato, inesorabile, insomma, perché molle e risoluto nello stesso tempo. Nei due passi trattenuti del valzer di quell'epoca straordinaria, era ancora possibile che un maestro nell'arte amatoria, un uomo che ci sa fare con le donne, desse prova della sua capacità, mentre i balli moderni più in voga tra le masse, questo era il pensiero di Leonida, altro non consentivano che misero spazio nell'anonima calca che li caratterizzava, al meccanico trottare di membra pressoché inanimate. Anche in seguito, ogni volta che a Leonida tornano alla memoria l'ebbrezza e i trionfi di quelle danze, si disegna intorno alla bocca graziosa, coi denti scintillanti e i morbidi baffetti ancora biondi, il suo caratteristico ambiguo sorriso. Più di una volta al giorno, Leonida è convinto di essere un vero e proprio pupillo degli dèi. Se uno gli dovesse domandare quale sia la sua concezione del mondo, egli dovrebbe ammettere apertamente di considerare l'universo un dispositivo il cui unico senso e scopo è vezzeggiare e far emergere dalle tenebre dell'anonimato i pupilli degli dèi simili a lui, che vengono poi dotati di potere, onore, lustro e ricchezza. Non è forse la sua stessa esistenza una prova lampante delle buone, amichevoli intenzioni del mondo? Nel misero appartamento dove egli vive da studente, un colpo viene sparato nella stanza accanto alla sua. Egli eredita un frac praticamente nuovo fiammante. I fatti incalzano poi come in una ballata. Per il carnevale interviene a diverse feste. Senza che nessuno glielo abbia mai insegnato, balla magnificamente. Piovono gli inviti. In capo a un anno è uno dei giovani più contesi della città. Basta che venga fatto il suo nome un po' troppo classicheggiante perché subito compaia sul volto di tutti un'espressione sorridente e benevola. È molto difficile procurarsi il capitale di esercizio necessario a condurre questa doppia vita e continuare a essere così popolare. Ma lui ci riesce grazie alla sua diligenza e perseveranza, nonché per la sobrietà delle sue pretese. Prima di tutto, e prima del tempo, supera tutti gli esami. Splendide raccomandazioni gli spalancano le porte dell'impiego statale. Dopo breve tempo si conquista la simpatia dei suoi superiori, che non si stancano di elogiare la sua discrezione e i suoi modi estremamente garbati. Passano pochi anni ed egli ottiene l'invidiatissimo trasferimento alla sede centrale, riservata solitamente ai nomi più prestigiosi e ai più eletti raccomandati. E poi l'amore, il folle amore di Amélie Paradini, la diciottenne, la splendida. Il leggero stupore di ogni mattina al risveglio non è certo ingiustificato. Paradini. È più che naturale che a questo nome si sobbalzi e si tendano le orecchie. Non ci siamo sbagliati. È proprio la celeberrima Paradini, la grande società con succursali e filiali in tutte le città del mondo. Da allora, naturalmente, il capitale azionario dei Paradini è stato incamerato dalle grandi banche. Comunque, 20 anni fa, non c'era in tutta Vienna un'ereditiera più ricca di Amélie. E nessuno dei nomi della grande aristocrazia e della grande industria, nessuno degli illustri pretendenti che le ronzavano intorno, riuscì a conquistare quel fiore di ragazza. Nessuno tranne lui. Il figlio di un insegnante di latino mezzo morto di fame, un ragazzo qualsiasi che si chiamava pomposamente Leonida e all'infuori di un macabro frac che gli stava a pennello non possedeva niente di niente. E pensare che già il termine conquistare non è preciso. Perché a dire le cose come stanno, anche in questa storia d'amore lui non fu il corteggiatore, bensì il corteggiato. La fanciulla, infatti, era riuscita con inflessibile energia a imporre l'idea del matrimonio contro l'esacerbata resistenza di tutto quel suo parentato carico di milioni. Ed eccola qui Amélie, il grande, grandissimo successo della sua vita, seduta anche oggi di fronte a lui come tutte le mattine. È curioso, ma l'essenza del loro rapporto non è cambiata. Tuttora egli si sente come colui che è corteggiato, come colui che si concede, che si dà, nonostante la ricchezza di lei che lo avvolge passo dopo passo con le lusinghe dell'abbondanza, del calore e dell'agiatezza. Tra l'altro, Leonida sottolinea spesso, non senza un'aria di incorruttibile severità, che egli non considera affatto suoi i beni di Amélie. che fin dal primo giorno ha voluto erigere una solida barriera tra i loro averi così diseguali, che in quella villa incantevole, ma ahimè troppo spaziosa per due persone, egli si sente una specie di inquilino, di pensionante, di ospite pagante, sebbene, senza nulla togliere alle spese del comune ménage, ad esse gli devolve l'intero suo reddito da funzionario statale, fin dai primi giorni della sua vita coniugale. Leonida si è attenuto rigorosamente a questa distinzione e Amélie, sia pure non nascondendo un sorriso d'intesa, è sempre stata incantata dall'orgoglio dell'uomo da lei amato e prescelto. Recentemente egli ha raggiunto il culmine della sua esistenza e ora piano piano comincia a scendere la scala. A 50 anni ha una moglie tuttora splendida di 38-39 anni. Leonida la scruta attentamente. Nel sobrio nitore della luce ottobrina splendono candide, nude, senza macchie né peli, le spalle e le braccia di Amélie. Questo biancore marmoreo e profumato è certo dovuto alle sue origini illustri, ma è anche il risultato di cure cosmetiche a cui lei si è sempre votata come a un culto con serietà instancabile. Ed è per lui, Leonida, che Amélie vuole conservarsi giovane, bella e sottile. Sì, soprattutto sottile, ciò che richiede una costante severità contro se stessa. Sul ripido sentiere di questa virtù, Amélie non arretra di un passo. Solidi e appuntiti, i suoi piccoli seni si levano sotto la maglia nera. Sono i seni di una diciottenne. Il non avere figli è il prezzo che entrambi paghiamo per questi seni da adolescente, pensa ora l'uomo.